forte tun tun nella testa. La gente che parla la seguo poi basta. Perché forte, ritmato, mai sentito, mai suonato, è il tun tun nella mia testa che concentra i miei pensieri, quelli persi, quelli veri, e che mi invita a una gran festa. La tua stessa, ma non farò alcun male, non la voglio rovinare, solo che nello stesso locale, nello stesso locale, è solo che nello stesso locale, nello stesso locale. E io voglio esserci portando allegrie, voci suonate, abbracci caldi ed innapoletano, longa, longa, longa, chiacchierata, tun tun di passi annullerà, paure e distanze mi porterà, al centro di tutte le danze, tutte le danze, tutte le danze, tutte le danze, tutte le danze. Soprattutto voglio portare risate, risate, risate, perché perfino le stelle non lo hanno mai chiesto, non hanno mai chiesto di essere nate, di essere nate, di essere nate, di essere nate, cuore che batte, che pulsa, che balla, la testa è musica, balla, tun tun di una cassa che scandisce il ritmo, o di un basso che ci rallenta, che ci richiama nel suo epicentro, ma che è impossibile che non si senta, perfino a me che mi sento lontano, il tun tun nella testa mi fa l'aeroplano, mi fa volare in ogni tempesta, perché arrivi il prima possibile alla sua festa, alla sua festa, alla sua festa. Non fa niente, no, non è rilevante. Che tu nasci, nasci, ti voglia bene ugualmente. Sono lo zio, raga, muffica, ti parla da lontano. Senti questo ritmo che ti prende per la mano e che ti porta con sé oltre ogni mare. Questo è tutto, dai, non smette di ballare. Ascolta le cazzate che scriveva e che cantava il suo papà.